Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Una giovane donna italiana cammina per strada tenendo per mano suo figlio. Un ragazzino di 15 anni, magrolino, taciturno, abituato ad abbassare la testa. Deve farlo ogni giorno, frequentando la scuola cattolica di Freehold, un paesino del New Jersey, dove hanno trovato rifugio tante famiglie di immigrati provenienti da ogni parte del mondo e che faticosamente hanno conquistato un posto anonimo e incolore all'interno della working class americana. Odia la scuola ed è stanco di farsi maltrattare dalle suore che cercano di insegnargli uno stile di vita che non gli piace. Difficilmente riesce a socializzare con i suoi coetanei e l'unico interesse che mostra di avere è quello per la musica. Una passione nata per caso, guardando una sera di settembre del 1956 una puntata del popolarissimo Ed Sullivan Show, nella quale si esibisce un cantante che ha cambiato per sempre la storia della musica moderna, Elvis Presley. Il piccolo ha solo 9 anni, ma rimane folgorato da quel cantante con il ciuffo pieno di brillantina che suona il rock and roll. Come tutti i bambini americani dell'epoca, desidera imparare a suonare la chitarra, ma la sua mano è ancora troppo piccola e così si accontenta di ascoltare la radio e imparare a riconoscere tutte le canzoni di Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry. Il suo nome è Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Ero stato morto fino a 13 anni, perché non riuscivo a esternare ciò che sentivo. Poi successe questo. Avrei voluto una batteria, ma non lavoravo e quindi non guadagnavo abbastanza per comprarla. Così decisi di prendermi una chitarra. Appena tredicenne, Springsteen si reca al banco dei pegni e per la modesta cifra di $18 acquista una chitarra, che entra prepotentemente nella vita del giovane, che impara da autodidatta i primi accordi e suona in ogni momento libero della giornata con una passione che però non viene condivisa dal padre. Per mio padre, che arrivava a casa stanco dopo una giornata di lavoro, tutto era maledettamente noioso. Maledetta era la mia chitarra. Maledetto era l'impianto stereo. E maledetti erano i miei dischi. Douglas Springsteen fa parecchi lavori. Operaio in fabbrica, guardia carceraria, autista. Ma siccome spesso capita che si ritrovi disoccupato, anche se per brevi periodi, il clima familiare ne risente. Come tutti i genitori dell'epoca, non vede di buon occhio il rock and roll e fa di tutto per contrastare la passione del figlio. C'era una grata accanto al mio letto, dava direttamente sulla cucina. E quando suonavo, mio padre apriva i tubi di scarico della stufa a gas, in modo da costringermi ad uscire dalla stanza per il troppo fumo. Così dovevo cercare riparo sul tetto. In estate mi capitava di portarci il materasso e di dormire lì, ma almeno riuscivo a suonare. Era come un fuoco che bruciava dentro di me. Il giorno del suo 15° compleanno, Adele, la madre di Bruce, che a differenza del padre incoraggia da sempre la passione di suo figlio verso la musica, apre la porta della sua camera e gli dice di accompagnarla in un negozio a pochi isolati da casa. Mi ero abituato a mettere via qualcosa ogni settimana, risparmiando sulla paghetta che ricevevo, e alla fine avevo da parte una 50ina di dollari. Quando mia madre mi chiamò, avevo già capito cosa avesse in mente e li portai con me. La vetrina del Freehold Music Center è piena di strumenti musicali di ogni tipo, flauti in bachelite, trombe, c'è persino una batteria. Adele e Bruce invece guardano l'angolo destro, dove una accanto all'altra sono esposte le chitarre. Insieme si godono quel momento di incoscienza. Tra tutte c'è una Kent, una chitarra da $60 che Springsteen ha definito in più di una occasione barely tunable, quasi impossibile da accordare. Eppure con l'aiuto della madre che aggiunge la differenza, quella chitarra varca la soglia del numero 87 di Randolph Street e cambia completamente la vita della famiglia Springsteen. Quando avevo 15 anni volevo suonare la chitarra, avere una band, volevo viaggiare, volevo essere bravo. davvero bravo nel lavoro che facevo. Volevo essere bravo in qualcosa che sentivo utile per il prossimo e anche per me. E da questo è nato tutto. A pochi isolati dalla casa di Bruce Springsteen vive un operaio di 32 anni, Tex Vineyard. È appassionato di musica e ha un garage che mette a disposizione dei gruppi di ragazzi che provano ad emulare le band che all'inizio degli anni 60 diventano gli idoli dei teenagers, i Beatles, gli Who. Una sera Springsteen bussa alla porta del garage e si presenta per una audizione. Mi presentai a Vineyard, che nel frattempo aveva cominciato a fare il produttore delle band più promettenti. Suonai un pezzo e lui mi disse di presentarmi di nuovo quando avessi imparato 4 o 5 pezzi. Lo disse pensando di liberarsi di me per un paio di settimane. Io invece tornai la sera dopo e lui rimase a bocca aperta. Tra i gruppi preferiti da Springsteen c'è anche Eric Burdon con i suoi Animals. Con la voce profonda e il suo impeto ribelle, spopola tra i ragazzini americani pur arrivando dall'Inghilterra e parla di emarginazione, di collera, disperazione, fuga. Tutti temi su cui Springsteen comincia a ragionare e che si trasformano nei testi delle sue prime canzoni. Siamo alla fine degli anni 60 e in una cittadina del New Jersey un ragazzino di nome Bruce Springsteen muove i primi passi sulla strada verso il successo. In questi stessi anni un giovane poco più che ventenne inizia a scrivere per alcune riviste musicali. È un vero appassionato di musica e impara a suonare la chitarra. Ma non è questa la sua strada, infatti è anche molto bravo a scrivere e ha un sesto senso per capire il lato commerciale della musica, quello che la maggior parte dei musicisti non vede. Riesce infatti ad ascoltare con estrema obiettività una canzone e capire se potenzialmente può diventare una hit. Con questa sua capacità imprenditoriale e il suo senso critico, scrive recensioni dei dischi, tanto che Rolling Stones, la più importante rivista musicale americana, lo assume a soli 26 anni come critico musicale. Il suo nome è John Landau. John Landau. Diventare un chitarrista famoso? No, probabilmente non ce l'avrei mai fatta. Però ho imparato a riconoscere un buon assolo da uno cattivo. Una canzone mediocre da un successo travolgente. Alto e occhialuto, John Landau spende molto del suo tempo a imparare gli aspetti legati al mondo della produzione, la scelta dei musicisti, dei suoni, dei testi che sono in grado di trasformare un cantante mediocre in una star mondiale. Produce alcuni dischi, ma cade vittima di una infezione intestinale che lo costringe a un periodo di riposo forzato durante il quale torna al giornalismo. La sua è una scelta obbligata. Il mestiere del giornalista gli piace, ma rimpiange l'attività di produttore. Pur scrivendo per Rolling Stones, ho conservato per molto tempo la mia rubrica musicale su Real Paper, uno dei due settimanali locali di Boston, da cui mi divertivo a recensire le novità musicali che si affacciavano sul mercato. Il peso delle sue recensioni è in grado di stroncare una carriera da altri definita promettente, oppure di far superare alle case discografiche quelle indecisioni che le trattengono dal produrre o no un nuovo artista. L'Atlantic Records, la Warner e tutte le principali case discografiche leggono con molta attenzione le sue recensioni. Bruce Springsteen dal suo 15° compleanno non smette più di suonare la chitarra. Nell'estate del 66 inizia a suonare in una band che ha il nome rubato a una marca di shampoo, The Castles, ma un fatto tragico cambia le carte in tavola. Bart Haynes, il batterista del gruppo, parte per il Vietnam e rimane ucciso in combattimento. Questo episodio segna in modo indelebile la vita di Springsteen, che in futuro dedica impegno sia artistico che economico alla causa dei reduci. Mio padre disse una volta: «Non vedo l'ora che ti prenda l'esercito, farà di te un uomo». Quando invece tornai a casa, dopo la visita di leva con in mano il foglio di congedo con scritto sopra riformato, il suo commento fu «meno male». Bruce Springsteen si trasferisce a Asbury Park, sulla Jersey Shore, la costa dove la vita notturna si sviluppa attraverso un dedalo di locali e club in cui si suona la musica dal vivo. Qui incontra Steve Van Zandt, Danny Federici, Vinnie Lopez, con i quali dà vita alla E Street Band, il gruppo che lo accompagna per tutta la sua lunga carriera. Another one. I locali del Jersey Shore fanno il tutto esaurito quando Bruce Springsteen suona la sua musica. Il repertorio non comprende cover di canzoni famose e questo aspetto rende la sua band diversa dalla maggior parte dei gruppi che suonano sulla costa orientale. Inoltre, la forza e l'energia che si sprigionano da ogni esibizione sono incontenibili, come incontenibile è il rock che suona. Grazie a Mike Pell, un produttore discografico locale, Springsteen riesce ad avere il suo primo contratto discografico con la Columbia Records, con la quale fa due dischi, Greetings from Ashbury Park e The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle. Perfino mia madre, quando le raccontai di aver ottenuto un contratto discografico, mi chiese: «E adesso come ti farai chiamare?» «Come devo farmi chiamare? Con il mio nome, ovvio. La prima cosa che ho imparato è quella di essere autentico, di essere me stesso». I primi due dischi non hanno un grosso successo dal punto di vista commerciale. È come se ascoltandoli mancasse quel qualcosa che rende invece incredibile ogni esibizione sul palco di Springsteen. A differenza del pubblico, i critici riempiono di elogi i primi due album del rocker di Asbury Park, diventato ormai a tutti gli effetti la sua città adottiva. Tra questi c'è anche John Landau. Scrivevo su Real Paper e ricordo che in occasione dell'uscita di The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle dissi che era l'album più sottovalutato dell'anno. Una fantastica storia di strada, appassionata e ispirata, tanto divertente quanto profonda. Landau è di solito prudente nei suoi giudizi. Sa benissimo che la sua fama di critico è rispettata da molte persone con abbastanza potere all'interno del mercato discografico da decidere la vita o la morte artistica di un cantante. Un suo giudizio positivo, quindi, può dare quella spinta necessaria a un discografico per convincerlo a rischiare qualcosa su un nuovo artista. Landau scrive per Rolling Stone, il più autorevole magazine musicale degli Stati Uniti, letto da milioni di persone in tutto il mondo. Il peso di certi giudizi può assumere un carattere di grande importanza. Mentre ascoltavo le canzoni, una dopo l'altra, prendevo appunti su un foglio di tutte le possibili correzioni che avrei fatto io se fossi stato il produttore del disco. A differenza di tutti gli altri critici che osannano semplicemente il lavoro di Springsteen, Landau inizia a elencarne i difetti riscontrati, ascoltando le registrazioni e individuandone i problemi. Il batterista fu sicuramente il punto debole dell'album. Non aveva forza, non aveva energia, tutto rimaneva appiattito. Il disco non fu prodotto nel modo giusto. In alcuni punti la registrazione risultava esile e incerta. L'unico elemento positivo era la magnifica voce di Bruce. Oltre a queste annotazioni di carattere tecnico, Landau dà anche dei consigli per le future produzioni discografiche di Springsteen, lasciando libero sfogo al suo crescente desiderio di abbandonare la carta stampata per tornare all'attività di produttore. «La prossima volta dovrebbe lavorare un po' di più a coordinare la produzione del materiale, arrotondare le spigolosità e gettare i suoi pezzi infuocati sul vinile. Le metropolitane di cui parla tanto corrono incessantemente per tutta la notte. E per il modo in cui suona il rock questo ragazzo, è solo una questione di tempo, prima che cominci a far salire i passeggeri». Queste parole, scritte da uno che non ha nemmeno ascoltato il primo disco di Springsteen, fanno molto piacere a Bruce e alla sua band. Lo stesso Landau decide di andare a sentire dal vivo il rocker del New Jersey e si reca al Charlie's, un piccolo bar di Cambridge a due passi da Harvard Square. Appena arrivato, la prima cosa che si notava era la coda di gente in fila per entrare nel piccolo locale, un locale da non più di 300 posti. Come è accaduto sulla costa atlantica, anche a Boston il passaparola ha attirato i fan di questo giovane cantante sempre più abituato a riempire ben oltre le aspettative i piccoli club in cui va a suonare. Mentre Landau è in coda per entrare, nota un ragazzo con una giacca leggera che legge sulla bacheca del locale l'articolo che lo stesso Landau ha scritto su di lui sul Real Paper. È aprile ed è una serata abbastanza fresca. Springsteen saltella per scaldarsi. Stranamente nessuna delle persone in fila lo riconosce, ma Landau sì. E si avvicina. Si avvicinò e mi chiese se mi piacesse il pezzo che stava leggendo. Io gli risposi: è buono, ma ho letto di meglio. Landau allora mi disse: dipende da te farmi scrivere cose migliori la prossima volta. E si presentò. Ci mettemmo entrambi a ridere e alla fine entrammo al Charlie's. All'interno del locale, Landau incontra Mike Appel, che si mette subito sulla difensiva chiedendo spiegazioni al critico sul suo giudizio negativo riguardante la produzione. Landau spiega con calma ad Appel quali sono i punti di debolezza che ha riscontrato sotto lo sguardo divertito di Springsteen, che segue con attenzione ogni singola parola di Landau. Vedere colui che si era definito scherzosamente, ma forse neanche tanto poi, il re del rock and roll, discutere con Mike, mi fece riflettere. sul fatto che ci potesse essere qualcuno che era ancora in grado di darmi consigli per migliorare il mio modo di scrivere e suonare. Lo spettacolo conferma le aspettative di John Landau. Sul palco la band, di cui fa parte anche Clarence Clemons, il gigantesco sassofonista di colore che rimane accanto a Springsteen per tutta la vita, sprigiona una tale forza, un tale carisma, che a un certo punto lo stesso Landau, seduto in prima fila, si ritrova a guidare gli applausi. Al termine dello spettacolo i due si salutano e Springsteen ringrazia Landau per i consigli che gli ha sentito dire nella conversazione con Mike Oppeo. La semplice stretta di mano che i due si scambiano è solo un primo contatto provocato dal destino. Deve passare solo un mese perché questo gesto sancisca una delle più durature collaborazioni artistiche della storia della musica. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Destini incrociati ripercorre le strade di Asbury Park, dove sta nascendo la stella di un mito della musica mondiale, Bruce Springsteen. A lui sta per legarsi indissolubilmente il destino di un critico musicale che ha tanta voglia di tornare a fare il produttore, John Landau. È passato circa un mese dal concerto al Charlie's dove Bruce e John si sono incontrati per la prima volta. Il 9 maggio Springsteen suona ancora una volta a Cambridge. Una mossa controcorrente dal punto di vista commerciale, perché suonare a distanza ravvicinata nella stessa zona può essere controproducente. Sapevo di correre il rischio di stancare il mio pubblico, ma questa volta non mi presentai da solo. Anzi, partecipai come artista di spalla al concerto di una mia grande amica, Bonnie Raitt. I due hanno in comune la passione per la chitarra e condividono i locali della costa atlantica dove costruiscono giorno per giorno il loro successo. Avevo 2 ore per esibirmi. Ci diedi dentro con tutta la forza che avevo. Ero abituato a farlo e non era un problema. Non mi aspettavo però la reazione del pubblico. A seguire il concerto all'Harvard Square Theater c'è anche John Landau, che non ha nessuna intenzione di rinunciare a un'esibizione di Springsteen. Il concerto è incredibile e si conclude in una selva di applausi. La cosa più incredibile è che la maggior parte delle persone prima acclama Bruce per fare il bis e poi abbandona il teatro come se la serata fosse conclusa, lasciando in secondo piano Bonnie Raitt, che a Cambridge è di casa. Tra coloro che rimangono profondamente colpiti dalla bellezza del concerto c'è anche un esterrefatto John Landau. Era la notte prima del mio 27° compleanno. Tornai a casa eccitatissimo e alle 4 di mattina mi misi subito a scrivere un articolo per il Real Paper. Non potevo tenermi dentro le sensazioni provate quella sera. John Landau scrive un articolo eccezionalmente lungo e intenso, nel quale racconta come le cose siano cambiate profondamente negli ultimi 10 anni. Dagli incontri devastanti a livello emozionale con gruppi come i Four Tops e i Rolling Stones, è seguito un periodo di appiattimento generale nel quale non c'è stato nessun altro artista in grado di reggere il confronto con i grandi del passato. Ma John Landau poi stupisce tutti i suoi lettori con una frase che entra nella leggenda. Giovedì scorso all'Harvard Square Theater ho visto il mio passato del rock and roll balenarmi davanti agli occhi. E ho visto qualcos'altro. Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen. E in una notte in cui ho avuto bisogno di sentirmi giovane, mi ha fatto sentire come se stessi ascoltando la musica per la prima volta. Anche se l'articolo continua per un'altra pagina e mezza, quella singola riga sta segnando il futuro di John Landau e anche quello di Bruce Springsteen. In pochi giorni l'etichetta di futuro del rock and roll si lega indissolubilmente alla figura di Bruce Springsteen. Tutti ormai cominciano a chiamarlo The Boss. Dopo la recensione di John Landau in cui Springsteen viene definito il futuro del rock and roll, la Columbia Records vede finalmente muoversi le classifiche di vendita dei due dischi già pubblicati e inizia un'attività di promozione che porta le canzoni del boss nelle radio americane. Bruce Springsteen mostra di avere due atteggiamenti mentali nei confronti della citazione di Landau. Da un lato è infastidito, perché pensa che Landau abbia messo in evidenza un aspetto troppo personale. Dall'altro invece apprezza la recensione per la forte spinta che ha dato alla sua carriera. Mi ha dato molta speranza. Quella frase mi ha fatto riacquistare la fiducia in me stesso. La band e io guadagnavamo $50 alla settimana. L'articolo mi aiutò ad andare avanti. Mi resi conto che stavo facendo effetto su qualcuno. Molti vedono in quell'articolo una velata richiesta di fare il produttore del prossimo disco, ma l'infezione intestinale di cui soffre Landau non gli permette di svolgere questa attività. I due diventano amici, si incontrano altre volte e ogni volta Landau spiega a Springsteen i meccanismi della produzione discografica. John mi spiegava la serie di funzioni che può avere un produttore. Alcuni sono ingegneri del suono, altri arrangiano le canzoni, oppure assistono nella scelta del materiale o dei musicisti che devono suonare nel disco. La Columbia chiede al boss di tornare in studio per lavorare al nuovo disco. Alcuni pezzi ci sono già, ma sono molto lunghi ed elaborati e non hanno un futuro radiofonico. Tra questi c'è anche Born to Run. Con a fianco Mike Appel, che però si occupa più degli aspetti commerciali piuttosto che di quelli artistici, le sessioni di registrazione si susseguono senza dare buoni risultati. Il lavoro sul nuovo disco comincia a diventare snervante. Non ero affatto certo di come sarebbe venuto Born to Run. Ero totalmente insicuro. Non sapevo davvero cosa metterci. Avevo perso totalmente il senso della prospettiva. Lo detestavo a tal punto che una sera dissi alla Columbia che avrei suonato i pezzi dal vivo e li avremmo registrati lì per fare il disco. Springsteen incontra diverse volte John Landau, che nel frattempo è convalescente da un'operazione a cui si sottopone per risolvere i suoi problemi fisici. Ogni volta i due si lasciano convinti di aver aggiunto qualcosa alla costruzione del loro rapporto professionale, che però non viene ufficializzato da nessuno dei due. Entrambi sembrano aver paura di buttarsi in un'impresa comune capace di sconvolgere la loro vita. Quando il rapporto sembra arrivato a un binario morto, Bruce Springsteen decide di affrontare la situazione e chiama John Landau ad assistere a una sessione di registrazione. La presenza del critico musicale cambia immediatamente l'ambiente dello studio. Ogni frase è costruttiva, porta miglioramenti e supera problemi che fino a quel momento nessuno è stato in grado di risolvere. Senza accorgersi di nulla, Landau diventa parte integrante del gruppo di lavoro e viene assunto come coproduttore. Nei corridoi dello studio un giorno capitò il mio vecchio amico Steve Van Zandt. Era fermo sulla porta, ci vide incapaci di superare un problema sulla canzone. La sezione fiati non riusciva a creare una melodia di appoggio al sax di Clarence Clemons. John lo vide e, avendolo sentito suonare in passato, gli chiese se avesse qualche idea da suggerire. Little Stevens, così lo chiamavo io, disse alla migliore sezione fiati in circolazione: buttatevi agli spartiti e ascoltate me. Steve gli cantò sul momento gli arrangiamenti e il problema fu risolto e divenne il nostro nuovo chitarrista. Uno alla volta tutti i problemi sulle canzoni vengono risolti e il disco sembra essere pronto per l'uscita. Ma Springsteen è ancora indeciso. Ogni volta che ascolta i pezzi vorrebbe modificare qualcosa. È il momento di intervenire per John Landau. Mi ero preso una vacanza a San Francisco e mi arrivò la voce che la data di uscita dell'album stava per essere spostata. Chiamai Bruce e gli dissi: adesso basta. Il disco non ti deve piacere. Pensi che Chuck Berry non si sieda ad ascoltarsi Maybelline? E pensi che non abbia voglia di cambiare qualcosa? Fidati, è ora di pubblicare il disco. Queste poche parole sono esattamente quelle che Springsteen vuole sentirsi dire. Il disco esce 2 settimane dopo, diventando uno dei maggiori successi della storia della musica rock. Oh, baby, this town rips the bones. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati viviamo la storia della nascita di Born to Run, un disco che è diventato un classico del rock grazie ai suoi due artefici, Bruce Springsteen e John Landau. Il successo del disco è incredibile e raggiunge il terzo posto nella classifica degli album più venduti del 1975. Per Bruce Springsteen è l'anno della consacrazione e da lì in avanti la sua carriera è un'ascesa continua. L'importanza di questo album ci viene sottolineata anche da John Landau. Born to Run non ha determinato nessuna rivoluzione stilistica come fecero le fondamentali registrazioni di Elvis Presley e dei Beatles. In realtà rappresenta il culmine di 20 anni di rock and roll. E quando venne pubblicato nel 75, diventò la più grossa testimonianza della continua vitalità di quella tradizione. A Philadelphia, a Boston, a Washington, Born to Run vende più di qualsiasi altro disco della storia del rock. Le ordinazioni dei negozi nel distretto di Columbia sono il triplo del nuovo disco di Elton John. Le radio della costa orientale sono saturate dalle canzoni di Springsteen, che inizia così la sua prima tournée nazionale. In ogni concerto la grinta dell'animale da palco che c'è nel boss scatena la folla che vive un'esperienza indimenticabile. Gianni Sibilla, giornalista di Rockall.it, da noi intervistato, ci ripete una frase nata come una leggenda tra i fan del boss. Gli ascoltatori di musica si dividono in due categorie: chi ama Bruce Springsteen e chi non l'ha mai visto dal vivo. Born to Run riceve una notevole attenzione anche da parte della stampa. Oltre naturalmente a Rolling Stone, anche il New York Times e tutti i principali giornali d'America dedicano spazio alla nuova stella del rock. Le recensioni sull'album sono tutte positive, ma ancor di più lo sono gli articoli che raccontano i concerti del boss. La richiesta di intervista diventa così elevata che Mike Appel, che formalmente risulta ancora essere il manager di Springsteen, concede le interviste solo ai giornali che garantiscono di mettere in copertina il boss. Ricordo che l'unica rivista che fece eccezione fu Playboy, ma Mike gli disse che se avessero messo la mia foto con il titolo "Il nuovo grande sex symbol del rock" ne avrebbero tratto indubbi benefici. L'attenzione dei media è così elevata che Newsweek e Time, i due principali settimanali degli Stati Uniti, dedicano la copertina a Bruce Springsteen nella stessa settimana. In realtà nei due articoli si parla poco del disco. L'attenzione è più incentrata sulla nascita di un fenomeno culturale che ha nel boss il suo principale rappresentante. Ma ormai si è innescato un meccanismo che permette ai dischi di Springsteen di superare i confini nazionali e diventare un artista conosciuto in tutto il mondo. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I'm getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Dopo il successo di Born to Run, Mike Appel, spodestato da John Landau come produttore, fa causa al boss e lo costringe a stare fermo 2 anni senza poter incidere nulla di ciò che scrive. Alla fine, un accordo economico risolve la questione e Springsteen può di nuovo cominciare a pubblicare le sue canzoni. In un certo senso Mike Appel era ingenuo quanto me, sapete come si dice. Tu fai il colonnello e io farò Elvis. Ma il fatto è che lui non è stato un colonnello e io non sono stato Elvis. Darkness on the Edge of Town, l'album successivo a Born to Run, non fa altro che confermare il successo del cantante del Jersey Shore. E anche se il più recente Born in the USA vende in un solo colpo più copie dei primi 5 album del boss, è innegabile che il cuore dell'opera di Springsteen risieda nelle 38 canzoni pubblicate nei primi anni. Il fattore principale che ha permesso alle cose di cambiare è stato John Landau. Con poche parole è sempre riuscito a fare la cosa giusta, dandomi il consiglio giusto al momento giusto. È riuscito a darmi uno scossone. I successi si inseguono anno dopo anno. e i fan di Bruce Springsteen assaporano la bellezza dei concerti dal vivo in ogni angolo del mondo. Il carisma del boss è così forte da far nascere la moda ormai utilizzata da tutti i grandi artisti di fare concerti negli stadi. In Italia il primo concerto di Springsteen risale al 1985. Il prossimo ci sarà quest'anno, a giugno. Tra i 60.000 che affolleranno gli spalti di San Siro, siamo sicuri di vedere tra il pubblico gli stessi ragazzi dell'85 accompagnare i propri figli per cantare insieme le canzoni del boss. Ancora una volta, la musica è in grado di rompere le barriere del tempo e unire generazioni di fan. John Landau, dopo il successo di Born to Run, abbandona definitivamente la carta stampata per dedicarsi alla sua vera grande passione. Diventa il produttore di tutti i dischi del boss e i due rimangono legati non solo da un rapporto di lavoro, ma anche da un sentimento di profonda amicizia che li unisce ancora oggi come quando trascorrevano le nottate in studio. Vuoi sapere come ho fatto ad andare d'accordo tutti questi anni con Bruce? Mi è bastato ascoltare con attenzione quello che aveva da dirmi. Credo sia questa la differenza tra un bravo e un cattivo produttore. Saper ascoltare e capire le necessità degli artisti. Sono tantissime le canzoni che Bruce Springsteen ha scritto. E le stesse canzoni sono state eseguite in versioni diverse nelle innumerevoli esibizioni dal vivo. Tant'è che ci sono molti bootleg, registrazioni non ufficiali, che risalgono all'epoca dei concerti nei locali sul Jersey Shore e che sono diventati pezzi per collezionisti. E il boss ha scritto anche per altri, come nel caso di Because the Night, regalato a Patti Smith, che poi lo ha trasformato in un classico del rock. Oggi Asbury Park non è più il luogo che negli anni 70 ospitava i locali più frequentati della East Coast, dove si respirava buona musica e voglia di cambiare il mondo. Oggi l'attenzione si è spostata sulla Grande Mela, New York. Ma se vi capita di passeggiare sul lungomare del Jersey Shore, provate a chiudere gli occhi e sentirete ancora risuonare nell'aria la chitarra di un ragazzino di 15 anni che è riuscito a cambiare la sua vita e a far cantare milioni di persone.